Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:16, un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi anche noi ci occupiamo del disastro della Costa Concordia. Ovviamente noi lo facciamo dal punto di vista dei passeggeri, ma anche ovviamente del personale di bordo, i diritti che queste persone hanno a rimborsi e risarcimenti. Lo faremo con illustri ospiti come sempre. Allora saluto, perché sono in collegamento telefonico con noi, l'avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale dei trasporti di Confconsumatori. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Saluto anche l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Tra poco ci raggiungerà in diretta sempre telefonica Roberto Corbella, che è il presidente di ASTOI, l'associazione dei tour operator italiani. Attualmente è impegnato in una riunione con alcune associazioni dei consumatori per capire un po' a questo punto il da farsi, visto che ovviamente sono coinvolti anche i tour operator. Prima però di affrontare il nostro tema, che oggi è particolarmente difficile proprio per i risvolti che questa tragedia ha avuto e sta avendo, intanto vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, anche qualora aveste dei racconti in merito alle vostre esperienze che possano essere utili a chi in questo momento si trova in questa situazione, anche ovviamente per dover presentare rimborsi e richieste di risarcimenti. Prima però, come dicevo, andiamo velocemente sui mercati per capire che cosa sta succedendo quest'oggi. Una giornata positiva per l'Europa, anche grazie alle chiusure positive dei mercati asiatici. Allora, prima di tutto, le notizie macro arrivate oggi. Il PIL della Cina è in progresso del 9,2% per il 2011, una crescita rallentata rispetto all'anno precedente, quando il dato era stato del 10,4%. E poi i dati relativi alle immatricolazioni di automobili in Europa, dati arrivati prima dell'apertura dei mercati: a dicembre una flessione del 5,8%, nell'intero 2011 un calo dell'1,4%, l'unica eccezione è stata la Germania, che ha avuto un risultato positivo sia per quanto riguarda l'ultimo mese dell'anno sia per quanto riguarda l'intero 2011. Nonostante questo, comunque, oggi il settore auto va molto bene in Europa. Dalla Germania è arrivato un altro dato positivo, che è quello dell'indice ZEV, che è l'indice che misura le aspettative sull'andamento dell'economia tedesca, un indice che è andato oltre le attese degli analisti. L'ultimo dato che vi racconto è quello di Fitch, e qui non parliamo di un dato ma di una previsione annunciata da Fitch: la Grecia insolvente farà default, secondo l'agenzia di rating, agenzie non molto popolari negli ultimi giorni, dobbiamo dirlo. L'accordo per imporre le perdite ai creditori privati è da considerare default. Questo annuncio da parte di Fitch non ha avuto un grosso riscontro sui listini, perché vediamo Parigi è in progresso dell'1,42%, Francoforte dell'1,74%, Londra guadagna uno 0,79%, a Milano FTSE MIB e FTSE All Share guadagnano un punto e mezzo circa. Per quel che riguarda il listino principale, velocemente, Unicredit è il miglior titolo fin dalle prime battute, più 4,78% ha allungato il passo. C'è da dire che questa mattina il fondo Abar di Abu Dhabi ha annunciato che intende sostenere attivamente l'aumento di capitale e quindi ampliare anche la propria quota. Fiat guadagna il 3,17%, dicevamo che l'intero comparto auto va bene questa mattina in Europa. Enel più 2,31%, Pirelli guadagna il 2,31%, Prismian il 2,28%, Intesa il 2,23%. In fondo al listino il peggior titolo resta Mediaset, che cede poco più di un punto percentuale, di Diasorin lo 0,81%, Tods lo 0,61%. Per quel che riguarda i titoli di Stato, lo dicevamo anche nel corso del GR, continua ad allentarsi la tensione su tutta la curva. Per quel che riguarda i BTP a 10 anni, lo spread in questo momento è a 469 punti base, per quelli a 2 anni a 390 circa. Questa mattina i rendimenti sono calati al di sotto del 4%, non succedeva da settembre. E allora, Torniamo a noi invece, e anche noi appunto ci mettiamo sul Costa Concordia, cerchiamo di capire tutti gli aspetti relativi a rimborsi e risarcimenti. Intanto l'ultimo aggiornamento è che è stato reso noto l'elenco delle nazionalità dei 29 dispersi, è stato diffuso dall'unità di crisi. Si tratta di 6 italiani, 14 tedeschi, 4 francesi, un ungherese, 2 americani, un indiano e un peruviano. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms e la nostra scheda. Il naufragio della nave Costa Concordia ha scioccato il paese intero. Nonostante il pensiero rivolto ai 4.000 passeggeri e il dolore per le famiglie delle vittime, nelle ultime ore l'attenzione ha iniziato a concentrarsi, in parallelo alle procedure di accertamento delle responsabilità, anche sui diritti economici dei turisti coinvolti nella tragedia. Le associazioni dei consumatori, dopo aver atteso 2 giorni in rispettoso silenzio, si sono attivate con diverse campagne e iniziative. Codacons parla di un indennizzo di 10.000 euro per passeggero e propone una class action. Confconsumatori annuncia la volontà di costituirsi parte civile qualora fossero confermate le ipotesi di reato e si giungesse a un processo. La Casa del Consumatore istituisce un comitato di tutela dei passeggeri della Costa Concordia e tutte le organizzazioni sottolineano l'importanza di rivendicare i propri diritti rispettando i passaggi e i tempi necessari. Tra i vari consigli, il primo da tenere a mente è sicuramente quello di inviare i reclami entro 10 giorni dalla data di rientro nel luogo di partenza, poiché, stando al codice del consumo, dopo tale data i diritti rischiano di diventare inesigibili. Va tenuto a mente anche che in questi casi l'interlocutore a cui fare riferimento non è l'armatore, bensì il tour operator che ha organizzato il pacchetto viaggio. Le rivendicazioni possono riguardare il rimborso della cifra pagata per il viaggio, i danni psicologici subiti per via dell'incidente, ma anche le perdite economiche dovute allo smarrimento di bagagli e documenti e alle spese per il rientro. Un elenco a cui si aggiunge il danno da vacanza rovinata, e c'è chi parla anche della possibilità, per chi possiede già il biglietto per un'altra crociera Costa, di chiedere un rimborso e rinunciare per via della paura provocata dall'incidente. Una rivendicazione che lascia intravedere i gravi rischi a cui questa tragedia sta esponendo anche l'intero mercato delle crociere. Davvero una tragedia che ha dei risvolti assurdi se poi si ascoltano le telefonate di cui un estratto è andato anche in onda nel nostro giornale radio, telefonata tra il comandante e la capitaneria, davvero terribili, davvero inquietanti. Noi siamo rimasti basiti quando le abbiamo ascoltate. E allora subito vorrei partire da alcuni spunti che ci ha dato la nostra scheda e vorrei chiedere all'avvocato Calì questo termine per presentare richiesta di risarcimento di 10 giorni. È un termine davvero pressante, forse è il caso di soffermarsi qualche istante perché sia chiaro a tutti, che tutti ben capiscano che ci sono solo 10 giorni di tempo. Allora sì, dobbiamo fare innanzitutto un chiarimento. Sì. Il termine è previsto 10 giorni, però la norma dice in modo chiaro che il turista può altresì fare reclamo entro i 10 giorni dalla data prevista per il rientro. Quindi c'è un altresì, d'altro questo è previsto adesso dal codice del turismo, che dal giugno del 2011 ha abrogato le norme del codice del consumo in materia di tutela di pacchetti turistici, e quindi il riferimento a quello che dice il codice del turismo e in qualche modo ricalca quello che c'era prima, anche se c'è qualche lieve differenza. Da questo punto di vista in passato c'è stata una certa incertezza, perché alcuni ritenevano, spesso i tour operator facevano questa eccezione, che questo termine fosse di decadenza e quindi eccepivano questo, sì, diciamo, eventualmente la violazione. Devo dire che con una sentenza del 2011, una recente sentenza del gennaio del 2011, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza e ha detto che questo termine non può essere ritenuto come un termine di decadenza, anzi ha precisato la Corte di Cassazione, possiamo ritenerlo un termine a favore del consumatore, quindi che non esclude la possibilità che il consumatore possa inoltrare reclamo anche successivamente. Fatte queste premesse, diciamo, per evitare quelle che possono essere poi comunque delle eccezioni che potrebbero venire fuori nel corso dei giudizi risarcitori, noi in ogni caso consigliamo di farla comunque entro dieci giorni, una raccomandata, così si evita un'eccezione. Dico, ripeto, ci sono due aspetti, quello normativo, che non c'è questa, diciamo, sanzione di decadenza a mio avviso, e il secondo della giustizia, che lo ha confermato. In ogni caso, cautelativamente facciamola questa raccomandata entro 10 giorni, così evitiamo che vengano formulate delle infondate eccezioni. Siccome i proprietari in passato hanno formato questa eccezione, evitiamo che lo facciano, soprattutto di fronte a una ipotesi di questo era tipo. Importante chiarire, anche perché comunque il termine è breve e ci rendiamo anche conto che chi ha vissuto questa tragedia si trova anche in uno stato psicologico non dei migliori, e per cui ci metterà anche un po' di tempo a ragionare sul che cosa deve fare a questo punto per ottenere almeno il risarcimento. Velocemente, prima della nostra prima pausa, volevo chiedere all'avvocato Ferrari, invece, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore, voi avete costituito un comitato? Sì, noi ci siamo fatti promotori di un comitato del quale adesso fanno parte 15 associazioni di consumatori, praticamente tutte. Sì. Diciamo che ci siamo messi tutti insieme. Per cercare di offrire una tutela rapida ed efficace a tutte queste persone. Ci sono problemi tipo quello che evidenziava l'avvocato Calì, giustamente è prudenziale, però visto che ci siamo mossi tempestivamente, perché non richiamare a rispetto di questo termine? Sì. Quindi giustamente noi cerchiamo di sensibilizzare subito tutte queste persone, cerchiamo di ottenere poi una tutela e un risarcimento che sia equo per tutti, perché trattare poi singolarmente ogni posizione chiaramente pone in posizione di magari il tour operator o la Costa Crociere o l'assicurazione che poi tratterà questi reclami. Certo. Le 12:33 minuti, e allora io do subito la parola a Luca da Parma. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Allora, io volevo raccontare la mia vicenda, che 10 anni fa avevo fatto l'incidente ferroviario a Firenze Castello, che credo tutti si ricordino. Io ero sull'Eurostar, stavo tornando da Roma, e io non ho avuto danni fisici. L'unica cosa che sono riuscito ad ottenere, inviando subito la raccomandata all'FS, è stato un bonus di, non mi ricordo più quanti ero, per il rimborso del ritardo del viaggio. Del viaggio. Sì, io mi ero, siccome il giorno dopo alle 8:30 avevo una riunione di lavoro, loro hanno detto che avrebbero organizzato il pullman sostitutivo, ma quelli che hanno preso il pullman sostitutivo sono arrivati a Milano 2 giorni dopo. Io mi sono dato il supporto, mi sono dato una macchina, me la sono pagata e sono andata a Milano. Allora, signor Luca da Parma, sicuramente ci sono delle grosse differenze tra i vari mezzi di trasporto quando succedono incidenti, catastrofi come in questo caso. Cercheremo di capire quali sono poi appunto proprio le differenze. Io do però subito la parola anche al signor Rosario da Siracusa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io devo fare 2 precisazioni. Allora, la prima, io questa sera sono stato su Costa Concordia e su Costa Romantica e confermo che su entrambe le navi, secondo me, c'è un tacito accordo fra il comandante e le capitanerie di porto, perché vengono fatti questi saluti vicino le isole, e confermo che è stato fatto anche vicino Vulcano, vicino le isole Eolie. E praticamente è lo stesso comandante che ci avvisa via megafoni di affacciarsi sul lato destro, sul lato sinistro della nave, nonché leggo sul giornale di questa mattina che praticamente sull'isola di Elba o del Gisoro, non ricordo, il sindaco ha fatto anche un ringraziamento per questi saluti che settimanalmente le navi fanno. Allora, il sindaco del Giglio, perché l'Elba si comporta diversamente, lo abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio. radio si comporta diversamente rispetto a queste rotte delle grandi navi da crociera. Ringrazio il signor Rosario da Siracusa per questa sua testimonianza, che ancora una volta ci riporta a come si avvicinino queste grandi navi alle isole. Voglio leggervi un SMS che ci ha inviato un ascoltatore da Pescara. Scusate, ma allora, dopo che cade un aereo, perché non possiamo chiedere il rimborso di un biglietto futuro per sopravvenuta paura? Forse perché è chiaro che può succedere. Questo mostra che la nave è un mezzo super sicuro, non sarebbe giusto chiedere il rimborso. Non demonizzate ora i tour operator e non ammazziamoli con decisioni senza senso. Volevo leggervelo perché nel frattempo c'è stato comunicato che il presidente di Astoi, Roberto Corbella, non può essere con noi perché la riunione di cui, a cui facevamo riferimento è slittata. Forse il dottor Corbella potrà essere con noi in chiusura, però sarebbe stato molto importante averlo con noi per capire anche come si regoleranno i tour operator, perché è a loro che si deve far riferimento per questi rimborsi. Io torno ai miei ospiti, ai due avvocati, e allora, proprio a proposito della possibilità di chiedere ad esempio il rimborso di un biglietto futuro su una di queste crociere, forse questo avvicinamento con gli aerei non è proprio del tutto fuori luogo. Chiedo a Carmelo Calì, perché alcuni già dicono che per crociere future forse c'è anche la possibilità di chiedere un rimborso e di rinunciare per via della paura provocata da questo incidente. Dottor Calì. Sì, allora io, a mio avviso, la questione deve essere giustamente affrontata evidenziando la paura che i passeggeri turisti possono avere nell'affrontare un'altra crociera, una crociera in questo momento, però c'è la possibilità di superarla senza invocare la crociera, se per esempio si tratta di persone che avevano prenotato delle crociere sul Costa Concordia. Perché in questo caso appunto la società dovrebbe fare loro una nuova proposta, e allora in base all'articolo 41 del codice del turismo, siccome si tratterebbe di una modifica significativa di un elemento o più elementi del contratto, in questi casi il consumatore ha diritto di accettarla o meno, e quindi se il diciamo Costa avrebbe l'obbligo di comunicargliela per iscritto, sì, e da parte sua il passeggero, il turista, può comunicare non intendo accettare questa nuova soluzione, certo, che tu mi... e quindi addirittura se il consumatore recede, un eccessivo articolo prevede che gli deve essere rimborsata entro 7 giorni la somma che aveva pagato per acquistare il viaggio. Quindi da questo punto di vista ci può essere una soluzione che è già prevista dal punto di vista del regolamento. Se poi ci può essere in ogni caso l'ipotesi di coloro che invece non hanno acquistato un pacchetto su Costa Crociere, hanno, sì, hanno acquistato altri su altre cose, allora certamente questo, diciamo, della paura di in questo momento di volare, di viaggiare con una crociera può essere invocato come una possibile soluzione, e quindi da questo punto di vista può essere un motivo non pretestuoso certamente da parte dei passeggeri. Attenzione, facciamo sempre riferimento alla gravità di quello che è successo. Qua, sì, non stiamo parlando di un lievissimo incidente, allora per cui diciamo il tour operator potrebbe dire è un'eccezione pretestuosa, stiamo parlando di un fatto gravissimo rispetto al quale il passeggero, ricordiamoci sempre che per come anche qui ha confermato la Cassazione, cioè lo scopo della vacanza è quello di un diciamo di uno spazio di tempo in cui il turista ha come finalità quello di riposarsi, di essere sereno. Allora una persona che dovrebbe partire senza essere serena, quindi non potrebbe diciamo utilizzare appieno quella che è la finalità della vacanza, sarebbe una vacanza vanificata, oltre che fatta con grossi problemi dal punto di vista della preoccupazione. Allora io invece volevo chiedere all'avvocato Ferrari quali sono i vari aspetti che si trova davanti in questo momento il passeggero, nel senso di che cosa può chiedere il rimborso, ad esempio del proprio bagaglio, anche se so che in questo caso ci sono delle differenze diciamo anche importanti rispetto ad esempio se uno perde il bagaglio in un volo aereo, ci sono delle difficoltà di fondo. Ma dunque Sicuramente i rimborsi a cui stiamo pensando e che vengono richiesti con le lettere che stiamo inviando o stanno inviando quelli che aderiscono al comitato, sono il rimborso sicuramente per quanto pagato per il viaggio, sì, e magari raddoppiata questa somma da condizioni contrattuali con la Costa Crociera, col tour operator. A volte coincide questo soggetto, perché la stessa Costa Crociera fa da tour operator e vende direttamente i pacchetti di viaggio sulle proprie navi, e talvolta invece si tratta di soggetti diversi. Poi c'è il danno derivante dalla perdita dei bagagli e dei beni, possono essere beni che avevano diversi, diciamo, dal vestiario, sì, con sé. E qua ci sono, intervengono delle limitazioni, solitamente la responsabilità del vettore riguardo proprio, ci sono delle limitazioni di responsabilità. Ora sinceramente non le so dire perché non sono io che affronto direttamente, sì, gli aspetti giuridici della vicenda, se qua siano invocabili o meno, però è un risarcimento che deve essere sicuramente richiesto, e poi valuteremo se sono applicabili o meno i limiti di responsabilità vettoriale. Sì. Poi c'è ovviamente il rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato a casa. Certo. Poi ovviamente parliamo dei danni per le lesioni personali che hanno subito diversi passeggeri, e addirittura in caso di decesso anche il danno derivante dalla morte delle persone, questo ovviamente è invocabile dagli eredi. Sì. E poi c'è il danno biologico legato allo stress emotivo, psichico che hanno subito queste persone in seguito a questo evento, perché poi al di là di danni materiali, diciamo, c'è anche un danno di paura che può intervenire, che poi leggevo che la scienza medica dice che spesso non si presenta subito, ma magari successivamente. Questi sono danni da stress, che anche questi devono essere risarciti. E poi c'è il danno da vacanza rovinata. Queste persone, come veniva evidenziato prima, si aspettavano un periodo di relax, certo, invece si sono trovati in questa tragedia terribile, sì. Certo, allora prima di la prossima pausa per le informazioni per chi è in viaggio, io volevo chiedere all'avvocato Calì quanto peserà l'accertamento della responsabilità del comandante ai fini di questi rimborsi, cioè c'è una relazione? La Costa potrà in qualche modo tirarsi fuori perché tutte le responsabilità ricadranno sul comandante, o comunque no? E questo appunto quanto peserà ai fini del rimborso, dei rimborsi? Ma i passeggeri, i turisti non dovranno da questo punto di vista avere nessuna preoccupazione, perché il consumatore ha un'azione nei confronti di tour operator, in questo caso Costa Crociere, diretta, e poi quella responsabilità del comandante può essere un problema interno tra appunto Costa Crociere e il proprio comandante, nel farsi tenere indenne di quello che sono i danni che ha subito. Quindi da questo punto di vista nessuna preoccupazione, anche nel caso in cui dovesse invocarsi appunto un'azione legale della stessa Costa Crociere nei confronti del comandante, a prescindere da ogni valutazione su questa azione. In ogni caso il passeggero ha un interlocutore e quindi a questo si deve rivolgere, quindi può esperire tranquillamente l'azione, diciamo. Certo. Tra l'altro appunto è un dipendente comunque, in ogni caso, sì, è comunque, certo, anche se non fosse un dipendente, è comunque un soggetto terzo di cui Costa Crociere si è avvalso per dare una prestazione, e appunto il codice da questo punto di vista dice che il tour operator risponde degli inadempimenti di tutti i soggetti terzi di cui si avvale nell'erogazione del servizio. Quindi ammesso che fosse, diciamo, in un rapporto contrattuale con l'armatore, che è un altro, sì, soggetto, o o comunque non fosse in questo rapporto di dipendenza, risponderebbe comunque ma a costa. Quindi i passeggeri da questo punto di vista possono formulare la propria azione, e quindi poi diciamo bisognerebbe distinguere fra quelle che possono essere le azioni sul piano penale in caso di processo penale, con la costituzione di parte civile nel processo penale, questo anche per fare un riferimento alla domanda precedente, sì. Rispetto a quelle che possono essere le responsabilità extracontrattuali da fatto illecito, che possono essere fatte valere ad esempio nel processo penale, e quelle che sono le responsabilità contrattuali che possono essere fatte valere in un giudizio civile, e quindi ci potrebbe essere anche la possibilità di una conciliabilità fra le due, sì, azioni da parte dei consumatori, e ottenere su una strada un tipo di risarcimento, sull'altro un altro tipo. Un altro tipo. Voglio leggervi alcuni sms. Ci scrive un'ascoltatrice: tanto finirà come la strage di Viareggio, i treni carichi di GPL continuano a sfrecciare, le navi, finita l'eco, continueranno a passare vicino. E poi ancora un altro ascoltatore: guardi, non ha importanza se si avvicinano le navi, è importante guardare le carte nautiche e i cartografici, perché è tutto segnato, lo dice uno che per mare ci va da decenni, e sono rimasto basito dal notizia. Questo per testimoniarvi un po' lo stato d'animo che vivono anche i nostri ascoltatori, o comunque tutti coloro che hanno assistito attraverso i mezzi di informazione a questa veramente questa grande tragedia. Un altro ascoltatore: continuate a parlare di mezzi di trasporto, ma una nave da crociera può essere definita tale? Non è piuttosto un villaggio turistico galleggiante? Non c'è nulla di simile tra treni e aerei. E anche questa è una osservazione da tenere a mente. Io però volevo tornare all'avvocato Ferrari, perché vorrei chiederle se a questo punto è configurabile una class action. Ma diciamo che c'è in questo caso una sostanziale omogeneità di determinati diritti da parte dei passeggeri, salvo poi casi specifici, per esempio chi ha subito lesioni, chi non le ha subite, per cui per un certo tipo di danni sarebbe anche ipotizzabile una class action o comunque un'iniziativa collettiva. C'è da dire che il comitato non è nato per questo, cioè noi speriamo, sì, anche se la Costa Crociere per ora non ci sta ricevendo, cioè ha ricevuto la nostra richiesta di incontro e dice che ci comunicherà la data in cui ci incontreremo, noi ci auspichiamo che serva soltanto ad avere un rimborso delle somme e un risarcimento dei danni rapido ed efficiente e comunque secondo quelli che sono i diritti delle persone che erano, sì, a bordo. Se questo non avverrà, ovviamente valuteremo anche l'ipotesi di un'azione di tutte le persone che hanno aderito al comitato o di tutti quanti comunque si trovino in questa situazione. Io vorrei approfittare, sì, magari per comunicare il numero verde attraverso il quale si può contattare questo comitato. L'adesione non è onerosa, per cui, sì, è semplicemente il caso di comunicarci i dati in modo che poi teniamo aggiornati tutti su quello che si fa, che e quello che si deve fare. Sì. Il numero è verde, è 800 168 566. Allora, 800 168 566, questo è il numero verde attraverso il quale potete chiamare il comitato a tutela dei passeggeri della Costa Concordia. Ci ha raggiunto telefonicamente il presidente Roberto Corbella, presidente di Astoi, l'associazione dei tour operator italiani, che saluto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, prima di tutto le chiedo se da questa riunione, all'interno della quale lei è impegnato con varie associazioni dei consumatori, se ci può dare qualche anticipazione di questa riunione, su che cosa state facendo il punto. Allora, questa era una riunione fissata da tempo, tempi non sospetti, molto prima che succedesse questo incidente, nello spirito di collaborazione tra noi e tutte queste principali associazioni consumatori, per vedere come meglio assistere i viaggiatori e i consumatori e prevenire qualsiasi forma di insoddisfazione. Sì. Questo è lo spirito che anima la collaborazione. Ovviamente, essendoci stato questo sinistro, certo, così importante, oggi è diventato un punto all'ordine del giorno. La riunione è ancora in corso, ne stiamo ancora parlando. lo spirito che rappresentiamo a nome di Costa, che è un nostro importante associato e uno dei soci fondatori di Astoi, Confindustria Viaggi, è quello della totale disponibilità e trasparenza per dare tutta l'assistenza dovuta ai passeggeri. È chiaro che in questo momento tutto il personale di Costa è impegnato soprattutto in quella che è la prima fase, che è quella dell'emergenza. Ancora sapete che si stanno cercando alcuni passeggeri che mancano, certo, l'appello, e anche di tutti quelli che dovevano partire con la stessa nave sabato da Savona, o comunque di quelli che sono stati sbarcati, il rimpatrio, il rientro nei loro paesi di origine, la sistemazione, tutta l'assistenza. Quindi questa è ovviamente la priorità assoluta che stanno dando. Appena si esaurirà questa fase, ormai è questione di poco, si passerà all'attenzione per tutto ciò che sono questi aspetti di ristoro per i passeggeri che sono stati, ahimè, coinvolti in questa spiacevole vicenda. E certo, anche perché comunque Astoi diventa uno dei protagonisti di tutta questa fase successiva, visto che appunto l'interlocutore per quel che riguarda i reclami non è poi l'armatore, ma è proprio il tour operator che ha organizzato il pacchetto viaggio. Beh, che in questo caso è sempre Costa, ma diciamo Astoi da tempo ha fatto una scelta condivisa da tutti i suoi associati di mettere il consumatore al centro. Tutti i nostri associati hanno capito quanto è importante il consumatore in tutte le varie fasi, quindi capirne i bisogni prima e poi assistere nel viaggio, e a me anche laddove dovessero succedere, come in questo caso, dei problemi, dei disservizi eccetera, poter ristorare tempestivamente e adeguatamente il consumatore. Da qui nasce la nostra collaborazione stretta con tutte le maggiori associazioni di consumatori, e come dicevo, in tempi non sospetti abbiamo iniziato un dialogo per capire come affinare queste cose, addirittura attivare ricerche di mercato, capire le esigenze, i bisogni eccetera, e prevenire piuttosto che curare. In questo caso ci troviamo, ahimè, a dover curare, cioè una situazione che è emersa. Il dibattito che è in questo momento in corso sta proprio ragionando su come si possa al meglio mettere in piedi questa cosa. D'altra parte non dimentichiamoci che abbiamo di fronte uno tra i più grossi gruppi a livello mondiale, sì. Costa fa parte anche del gruppo Carnival, certo. Quindi tutti i consumatori possono essere assolutamente tranquilli che verranno tutelati tutti i loro diritti, tutti i loro interessi, anzi, conoscendo il modus operandi di Costa, ho ragione di pensare che faranno probabilmente anche meglio di quello che non è strettamente noi necessario. Questo ovviamente ce l'auguriamo non solo per noi, ma ovviamente per tutti coloro che hanno preso parte a questa crociera. Rita da Roma, buongiorno, benvenuta, le chiedo di essere molto rapida. Sì, guardi, io volevo semplicemente chiedere se il comandante ha assicurato. Poi volevo dire che io sono stata 2 giorni al Golfo del Leone con il mare a Forza 9, con una nave 6 volte più piccola di questa, e non è successo assolutamente nulla, in quanto tutta la mobilia, per quello che mi ricordo, è tutta fissata o alla parete o al pavimento, quindi voglio sapere i vostri esperti cosa ne pensano di questo. Allora, intanto non credo che nessuno di noi possa affermare che o smentire che il comandante fosse assicurato, perché non abbiamo poi notizie certe, dovremmo chiedere a Costa a questo proposito. Però la signora Rita, nella sua domanda, quando ci è arrivata la sua richiesta, chiedeva anche in merito a tutte le assicurazioni di cui abbiamo parlato e che abbiamo letto sui giornali, sia per quanto riguarda l'armatore sia per quanto riguarda poi i passeggeri che possano richiedere i rimborsi, se davvero possono far riferimento a tutte queste assicurazioni che Costa e Carnival fanno e hanno fatto per le proprie navi. Allora io chiedo velocemente all'avvocato Carmelo Calì di ribadire, riepilogare tutti i fronti su cui possono lavorare i passeggeri, quindi tutti i vari rimborsi che possono chiedere a questo punto, perché sono tanti i fronti da esperire, da percorrere, non c'è solo il rimborso per il bagaglio. Sì, allora diciamo che due sono le strade. Innanzitutto volevo brevemente condivido quello che diceva il collega Ferrari per quanto riguarda l'ipotesi conciliativa, sì. L'abbiamo auspicata anche noi, aderiamo al comitato e ci auguriamo che Costa voglia aprire questo tavolo di conciliazione anche perché noi. È la strada per correre. Certo. In ogni caso ci sono due strade, quella della costruzione di parte civile nel processo penale per appunto nel caso in cui saranno ravvisate queste responsabilità, sì. Penale, e la strada del risarcimento civile, che sono appunto compatibili rispettando alcuni criteri, e per quanto riguarda le ipotesi di risarcimento sono innanzitutto il rimborso del prezzo del biglietto, poi vi risarcimento per tutti i beni che sono andati distrutti. Avvocato, io la devo purtroppo interrompere perché altrimenti ci sfumano e non è bello non salutarvi così. Ringrazio l'avvocato Carmelo Calì, ringrazio l'avvocato Giovanni Ferrari, ringrazio il dottor Roberto Corbella, presidente di Astoi, grazie in redazione a Marco Lombardo, grazie a Roberto Scaltritti e a tutti voi, l'augurio di una buona giornata. Fisco, le domande le fai tu, le risposte le dà Radio 24. Mercoledì 25 gennaio alle 12 con una puntata speciale di Salva Danaio e con rubriche in coda ai principali GR della giornata. Radio Day Telefisco, le risposte ai tuoi dubbi. Mercoledì 25 gennaio, a partire dalle 9 su Radio 24.